Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buona domenica! Buona domenica! Buona domenica a tutti. Cosa ridi? Cioè, sei pazza oggi, non lo so io. Vabbè, sono felice, no? C'è la belle giornate, c'è questa la primavera, tutto, io mi sveglio. Te ti addormenti, io mi sveglio. Io vado in letargo d'inverno, tu d'inverno sei sveglio come un grillo. Dormo ad aprile. Dormo? Quello chiuso. Dormo ad aprile, ma non a maggio. Maggio mi sveglio. No, tu dormi, punto. Tu dormi. Ah, tu hai detto dormo. Vabbè, ok, invece di parlare di questa roba qua, allora, iniziamo la giornata... con una bella notizia. Con una bella notizia. Si è formata una nuova associazione a Milano, si chiama Area Cani Milano. Abbiamo con noi il presidente Roberto Perissinotto. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao Roberto. Ciao. Allora, vi vediamo sempre attivi, perché noi portiamo i nostri cani a spasso e vediamo questo gruppo di persone che sposta, si fa gli aperitivi. Cioè, che cosa fate? Con cani di tutti i tipi, di tutte le taglie, e io terrorizzata vi guardo da lontano con le mie pulci. No, ecco, noi siamo un gruppo di persone che ci siamo conosciuti al Parco Sempione. E da lì abbiamo, attraverso la conoscenza dei nostri cani, eccetera, abbiamo approfondito il nostro rapporto, e col fatto che ci vediamo due o tre volte al giorno al parco, perché ogni giorno i nostri cani ci portano al parco per giocare, abbiamo pensato di riqualificare un'area cani nel Parco Sempione. Ecco, questo è l'obiettivo dell'associazione Area Cani Milano. Perché il problema è questo, che le aree cani hanno bisogno di una continua manutenzione, sì, per sistemare il prato, le buche. Certo. Ecco, nonostante gli interventi del comune di manutenzione, diciamo, ordinaria, noi vogliamo fare di più, vogliamo creare un progetto che consenta di fare convivere al meglio i cani e di a supporto al rapporto tra cani ed esseri umani. Okay. Questo è quello che vogliamo fare. Bravo. Bello, ma quindi è una cosa che nasce solo da privati, giusto? Sì, è un'iniziativa privata, perché appunto c'è questa possibilità che permette il Comune di Milano di adottare da parte di privati un'area verde. Ecco. Noi abbiamo deciso di adottare un'area dentro il Parco Sempione, perché siamo un gruppo proprio che viviamo ogni giorno al Parco Sempione. Certo. Certo. Abbiamo deciso di inserire nel progetto dell'area cani questa riqualificazione. Ecco, siamo convinti. Scusa, dimmi pure. No, com'è che si fa? Cioè, se io privato volessi anch'io. Ti unisci a loro? Ti unisci a loro. Abbiamo aperto le associazioni l'anno scorso e subito abbiamo avuto molte adesioni. Tutti i nostri amici, diciamo, tutte le persone che frequentano il parco, adesso noi siamo un gruppo diciamo sui 60-70 persone che hanno il proprio cane, ci vediamo, facciamo delle iniziative legate ai cani, iniziative sociali anche. Ma è interessante la domanda di Rosita, perché magari facciamo, sì, anche, diciamolo, se tu sei a Napoli, magari non sei a Milano, se tu sei a Roma e ti viene un'idea, no, che possa riguardare i cani, anche se poi qualsiasi altra, certo, cosa, la prima cosa che devi fare è che devi raccogliere persone che la pensano come te. Quindi è da qui che nasce, no, l'area C Milano, come io ho sentito a volte. Perché poi devi avere anche il comune che ti supporta dopo che hai raccolto persone. Più persone hai nella tua associazione, più riesci a farti ascoltare, perché la tua voce evidentemente conta qualcosa. Voi quanti soci siete al momento? Allora, siamo oltre 50 soci, però quando ci troviamo, quando proponiamo delle iniziative per i cani, eccetera, raccogliamo anche oltre 100 persone. Ecco, vedi. Per cui, anche perché nel Parco Sempione ci conoscono, ecco, perché aiutiamo anche chi ha bisogno, magari ha bisogno di portare il cane in giro. Ma infatti ho visto, ci sono anche dei dog sitter all'interno. Bello, sì, vi date una mano tra di voi, è molto bella come tutto cosa. Iniziativa no profit, ecco, cioè, abbiamo sempre fatto tutto aiutando in maniera no profit. E oggi, questa domenica, voglio dire, avete un appuntamento importante, giusto? Sì, siamo al Parco Sempione, vicino all'arena. C'è una manifestazione organizzata da Mailand Dog. Patrocinata anche dal Comune di Milano, mi sembra. E voi avete un vostro gazebo dove date informazioni e poi fate anche dei giochi, mobility, agility, no? Avete organizzato? Sì, abbiamo pensato che oltre a dare informazione, quindi dare dei volantini e informare le persone che si avvicineranno al nostro gazebo, abbiamo organizzato anche dei giochi con i cani, interattivi, quindi non solo per far giocare i cani, ma per far giocare anche le persone con i cani e i bambini. Ecco, che tra l'altro i bambini con i nostri cani, che non sono domesticati, sono nostri domestici, sono spesso è molto piacevole vedere il bambino che si avvicina al nostro cane e fa un grande sorriso. Ecco, noi ci piace proprio intensificare il rapporto tra le persone e i loro amici. Senti, fino a che ora sarete lì oggi? Saremo lì fino alle 19:30. Per cui... Beh, benissimo, cioè ancora adesso ci andiamo. Magari vediamo di passare anche io e Angelo, dai. Allora, grazie, ottimo. Grazie Roberto Perissinotto, presidente dell'Aria C Milano. Tra poco parleremo di perché i cani uccidono ancora con Barbara Gallicchio. Restate con noi. Grazie Roberto, ciao. Grazie, ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Siamo sempre qui in onda con Chiedimi se sono felice, @radio24.it, scriveteci perché ogni tanto, come vedete, vi chiamiamo. Dunque Celentano, occupiamoci di un tema serio: perché i cani uccidono ancora. A breve si terrà un seminario della durata di una giornata, il 19 giugno. Ho invitato le due persone coinvolte nell'organizzazione, sono Lorella Notari e Barbara Gallicchio, entrambi medici veterinari comportamentalisti di ASETRA, che è l'associazione studi etologici e tutela delle relazioni con gli animali. C'è una patata in bocca, Vaira, stamattina. Pronto? Pronto. Ciao. Ciao, ciao Barbara. Ciao. E ciao Lorella. Facciamo questa telefonata, questa chiacchiera a quattro. Questa chiacchiera a quattro perché, insomma, il tema è importante. La domanda è una bella domanda, è una domanda tosta. Naturalmente è provocatoria, nel senso è buttata lì come a dire alla gente, beh, insomma, ma come mai con tutte le informazioni che passano? Con la sensibilità aumentata che c'è, con il fatto che insomma c'è tantissimo per informarsi, no? Oggi tra i testi scritti, il web, le trasmissioni, eccetera. I social. Si suppone che la bambina di 3 anni da sola che apre la porta, va nel giardino del nonno, apre la porta del recinto dove il cane sta mangiando, lo va ad abbracciare sulla testa senza che nessuno la controlli. Ecco, magari questa cosa non dovrebbe capitare più, certo. No, perché ci sono dei casi nuovamente recenti di gravi aggressioni, addirittura che hanno portato alla morte, giusto? Di bambini. Sì, qualche giorno fa è uscita questa notizia negli Stati Uniti di questo grosso incrocio pitbull che era sul lettone con i genitori e la neonata di 3 giorni. La mamma ha avuto un accesso di tosse e il cane ha reagito a questo accesso di tosse aggredendo la neonata, che ha ucciso nonostante fossero lì sul letto presenti. No? Ma questo come si spiega? Questo si spiega con un cane, ovviamente con un cane molto instabile, che ha avuto una reazione. Poi possiamo dire, la bambina aveva solo 3 giorni, il cane non era stato socializzato con i bambini, non conosceva i bambini piccoli neonati, che sono una categoria di rischio, proprio perché i cani spesso non li conoscono, non hanno odori compatibili con le persone, non hanno vocalizzi compatibili, si muovono in modo strano, le braccia, le gambe le muovono in modo strano e fanno questi versi strani, strilli. Possono inquietare. È una superficialità da parte degli adulti, perché pensano che un cane sia un soprammobile. Io non credo che quel cane... che magari non aveva avuto altri episodi dove gli adulti, i genitori di questa neonata non potessero capire che era un cane che aveva delle paure, delle sensibilità o delle stranezze, no? Guarda Rosita, è molto difficile dai media, da quello che ti raccontano, fare la disamina del caso, certo. No? Bisogna andare lì e capire dove, come, quando è successo, perché, cos'era successo prima. Purtroppo la maggior parte delle volte le persone sono sopraffatte dall'evento che è capitato. Mm-hmm. Cioè mai più, ovviamente, questi qua mai più potevano pensare che il loro cane, che probabilmente era abituato a stare sul lettone con loro, avrebbe mai potuto aggredire la loro neonata. Senti, ma già che ci siamo, ci sono c'è un comune denominatore, no? O diversi in queste dinamiche. Vogliamo, visto che non è stato ancora sufficiente, visto che i cani uccidono ancora, raccomandare a chi è a casa di non fare i comuni fatali errori? Tipo appunto la bambina col cane che non è di casa va a casa dello zio, del cane dello zio. Il contesto di massimo rischio è il cane nella sua casa o nel suo territorio, nel suo giardino o nella sua automobile. Il bambino che va nella casa o nel territorio di questo cane o nelle sue immediate vicinanze, e magari il cane è di un parente, spesso è di un parente, del nonno, dello zio, di un amichetto. Il bambino va dal cane, non il contrario, la maggior parte delle volte è il bambino che va dal cane, perché ai bambini piacciono i cani tantissimo. Quindi i bambini vanno dal cane e lo abbraccia sulla testa, gli inciampa addosso, lo trattiene, magari il cane vuole sfuggire, il bambino lo tiene, certo, fa qualcosa di attivo verso il cane, il quale stava magari facendosi fatti propri, mangiando, rosicchiando, dormendo, oppure era assorto, e lo sorprende, oppure diciamo lo irrita. Fatto si è che nella stragrande maggioranza dei casi non c'è un adulto presente. L'adulto era dietro l'angolo, in casa, fuori casa, andato a prendere il caffè, qualsiasi altra cosa. È l'adulto, difatti io mi sento di dire che sulla domanda perché i cani uccidono ancora, si sa, è per una negligenza degli adulti, non è per una cattiveria gratuita dell'animale. Ecco, anche su questo bisogna dire delle cose. No, allora, ci sono due temi che vengono sollevati qua, no? Uno è che, in effetti, la domanda che voi vi ponete è provocatoria. Cioè, non è che non sappiamo perché i cani uccidono, ma perché queste informazioni non sono non soltanto alla portata di tutti, ma poi non vengono osservate, no? Questo è il motivo, no? Esatto. Credo di aver capito. Esatto. E poi ci sono anche dei casi, io vorrei far intervenire anche Lorella Notari vorremmo capire che cosa sono i cani da ordinanza, cioè di che cosa si tratta, perché so che vi trovate spesso a fare consulenze con dei cani che hanno morso, è stata fatta un'ordinanza da un giudice, vi dicendo. Ci chiarite un po'? Non è un giudice che fa l'ordinanza, in realtà che fa l'ordinanza è un pubblico ufficiale, che in questo caso sono i responsabili delle ASL, quindi dei medici veterinari ufficiali, che di fronte a dei fatti oggettivi, quindi un cane che ha morso più di una volta, un cane che ha morso in maniera grave, dicono a questo proprietario: bene, tu adesso però devi fare qualcosa in più, devi fare una visita comportamentale, devi fare questo famoso corso di formazione per proprietari di cani, che in realtà dovrebbero fare tutti. Sì, difatti, scusami se ti interrompo, mentre tu stai parlando mi è venuto a dire sempre dopo noi, perché per esempio in Svizzera fanno questi corsi prima che uno adotti il cane, e se non sono preparati quel tipo di cane non glielo fanno prendere. Sì, in Svizzera è una cosa diversa, nel senso che hanno 4 ore obbligatorie per tutti i proprietari, mentre per i proprietari di cani di determinate tipologie c'è un percorso un po' più approfondito, per cui anche prima di prendere il cane vanno a guardare se hanno le risorse per tenere questi cani. Da noi queste cose non ci sono, però quindi diciamo che noi abbiamo un intervento a posteriori. Ma e cioè noi spesso ci troviamo di fronte a gente che viene obbligata a fare la visita. Vedi, ma ci fai degli esempi recenti che ti sono capitati, Lorella? Ma parlando di bambini, un esempio recente è stato di un bambino che ha subito un danno abbastanza importante, pur essendo una situazione di una banalità che bastavano due informazioni, no? Questo bambino che porge del cibo al cane dell'amico, cane peraltro ben socializzato, poi il bambino ha paura, ritrae il cibo, il cane scatta verso il bambino con la bocca aperta e gli taglia una guancia. Esita un danno, perché un bambino così piccolo con il viso a livello del cane, e evidentemente serve al proprietario avere informazioni sul fatto che questa può essere una situazione a rischio, no? Però è stato un evento, diciamo così, che poteva essere prevenuto semplicemente se il cane avesse per esempio, risposto semplicemente a un seduto e gli si dava il cibo, no? Quindi a volte anche banalmente l'educazione di base serve. Altri esempi, una bambina mossa gravemente dal suo cucciolone di Doberman, perché comunque adottato un cane di questa tipologia senza risorse, senza spazio, un piccolissimo appartamento con due bambine piccole, la mamma che non supervisionava, e succedono questi incidenti che poi chiaramente esitano in drammi per la famiglia, perché poi quando un bambino di Vorrei fare una cosa col vostro aiuto, e sollevo proprio il punto che ha tirato in ballo prima Rosita, no? Si dice spesso è sempre colpa del proprietario, non è mai colpa del cane, sempre se poi vogliamo buttarlo sempre se voi poi vogliamo buttarlo sulle colpe. Però è anche vero, quindi poi adesso sentirò il vostro parere, che se una persona cresce in un modo anche buono, no? un certo tipo di cane, anche se è stata brava, a un certo punto questo cane tira fuori delle motivazioni e dei comportamenti che sono difficili da gestire. Piuttosto che se tu prendi un proprietario che magari non è così attento e si tira su un Cavalier King, non avrà gli stessi problemi se la stessa cosa la fa appunto con un Doberman o con un Rottweiler. Ovviamente ci sono delle tipologie di cani che per le dimensioni, per il livello di reattività, sono magari più a rischio. Cioè dire sempre che è colpa del proprietario crea un grosso problema, che la gente non chiede aiuto. Ho capito, però tantissimi casi in cui il cane ha un problema. È vero che magari il proprietario, se fosse cosciente di questo problema, avrebbe più prevedibilità, quindi metterebbe, però qualche volta il discorso del cane che ha un certo tipo di reattività salta fuori magari al primo episodio. Ma quello che voglio dirti io proprietario o io genitore non creo le condizioni perché succeda questo, ma senza parlare di cane, ma io ho un chihuahua che non vuole essere toccato, se in braccio a carezza chihuahua non credo che possa ammazzare neanche un neonato di 3 giorni, però magari un morsetto, un buchino, una cosa la può fare. Cioè io adulto, genitore, proprietario di cane o non devo mettermi nelle condizioni di, quindi se scelgo un cane, io avevo anche un alano, sapevo che l'alano quando giocava, anche solo se alzava una zampa, se prendeva un bambino di un anno gli poteva far male. Stiamo facendo segno della regia, magari scavalliamo un po' dopo la pubblicità. Però il discorso è questo, non è tanto, è ovvio che tu puoi badare alle condizioni, ma questa cosa di è colpa del proprietario significa che se il cane è aggressivo è sempre colpa del proprietario. No, io intendevo in quel senso. Perché a volte il cane è aggressivo anche se il proprietario non ha colpe. Diciamo che se io ho un golden retriever ho meno possibilità che il golden retriever si rivolti piuttosto che un pitbull, o è uguale? Allora, in un certo modo Rosita, parlando dei bambini, ha ragione, perché quando parliamo di bambini c'è la responsabilità del genitore oltre che del proprietario, certo. No? Quindi è chiaro che quando parlo di bambini bisogna avere tutte le precauzioni con qualsiasi cane, quindi qualsiasi cane, per me il messaggio al proprietario, certo, è: bambino piccolo mai da solo, bambino molto piccolo supervisionato attivamente, esatto. Quindi se queste cose non vengono fatte, chiaramente la responsabilità è della persona, certo. La responsabilità non è mai del cane di per sé. Esatto, quello che penso io. Senti, scusami, siccome è molto interessante, facciamo un attimo un piccolo break e riprendiamo subito la chiacchiera con voi. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Rieccoci dopo la pubblicità. Stavamo parlando di cani pericolosi, del motivo per cui i cani uccidono ancora. Ci sarà un seminario a breve, si terrà il 19 di giugno presso Asetra. Abbiamo con noi due medici veterinari comportamentalisti al telefono, Barbara Gallicchio e Lorella Notari. Stavamo parlando con... Perché Barbara diceva, adesso mentre eravamo in pubblicità, che noi continuavamo a chiacchierare, Barbara diceva anche che ci sono cani aggressivi anche con altri cani, giusto? Non è solamente con i bambini. Sì, certo, i bambini sono purtroppo spesso vittime perché si comportano a modo loro, no? Cioè, i bambini spesso non chiedono, fanno le cose, quindi si trovano coinvolti. Dall'altra parte molto spesso i cani da ordinanza, cioè quei cani che hanno avuto una limitazione della libertà, per esempio l'imposizione della musolosa e del guinzaglio sempre, e poi il proprietario avrà a sua volta degli obblighi, vengono da noi perché hanno ucciso un altro cane. E in questi casi noi abbiamo di fronte due diverse categorie di proprietari, e cioè quelli che sono totalmente irresponsabili, per cui ti dicono, ma sai, il cane era lì fuori dal nostro cancello, cosa ci possiamo fare? Certo, perché esce il loro cane, ne uccide un altro che passa di lì, e loro dicono che... Così, sì, sai, insomma, lui, a lui dava fastidio, era lì davanti, lo vedeva sempre, gli stava antipatico. Quindi proprio gente che non ha il minimo del buon senso, no? Oppure gente che porta fuori due cani enormi insieme, cosa che per esempio tornando alla Svizzera è proibito. Ah sì? Sì, in Svizzera se tu hai un cane della lista, perché poi lì loro hanno varie liste, certo, diverse nei vari cantoni, non puoi portarli fuori insieme. Per esempio in Ticino tu hai due pastori tedeschi, escono prima uno poi l'altro. Questo è un modo, poi giusto o sbagliato se ne può parlare, però è un modo per prevenire o per non creare le condizioni. Beh, nel caso specifico, se è una ragazza che pesa 40 kg mi esce con due dog argentini, e poi magari questo dog, cosa che proprio è successa, gira l'angolo, c'è un cagnetto piccolino e non lo fermi più. Non riesce, lei non riesce. Anche se vuole non riesce. Certo. No, non riesce. Quindi i cani le sfuggono e uccidono questo cagnolino, che è una cosa orribile, no? Perché... guarda, vedere il cane sbranato da un altro cane, Non voglio sapere. Poi insomma ci sono, dicevi, anche questi video che girano sui social di bambini che mettono le mani in bocca al cane, che gli tirano l'osso con i genitori, che ridono e che poi fanno il giro della rete. Tutti pensano che tutti i cani siano buoni e santi e che non ci sia nessun tipo di problema con nessun tipo di cane, fanno le stesse identiche cose e poi invece... Sì, veramente, tra i messaggi che ricevono così, con queste favole che vengono raccontate da questi micro video, dall'altra parte invece i messaggi alla Cesar Millan, cui il proprietario, sì, appunto, hai dato troppo amore, no? C'è questo messaggio universale, hai dato troppo amore, che colpevolizza le persone. Noi veramente pensiamo che un po' di buon senso, un po' di informazioni, forse proprio quelle essenziali, e ci siamo interrogate su questo, abbiamo pensato di fare un seminario, vedere se riusciamo ad arrivare là dove nessun uomo è arrivato finora. Brava, guarda, io con tutto quello che posso, che può servire per dare più visibilità dopo, se ci sono video, foto, cose, lo faccio, contate su di noi ovviamente. Senti, ma Lorella, ci parlavi di buon senso, in che senso? Cioè, allora, tu dici, siamo bombardati da informazioni, a volte si tende a darle per buone, per scontato che siano buone sempre, quando invece il buon senso ci dice attenzione. Sì, siccome noi stiamo con i cani da decine di migliaia di anni, qualche cosa sappiamo nel nostro profondo e qualche volta non ci ascoltiamo. Per esempio, io ho un sacco di casi in cui i proprietari, fatti parlare, poi ci arrivano da soli. Sì, lo so che non dovevo fare questo, però mi hanno detto che, per esempio, alcune cose banali, no? Se hai un bimbo molto piccolo in camera da letto e non ci tieni un cane di grossa taglia molto reattivo, sai che magari è un cane che scatta per niente, lo abitui prima di avere il bambino a stare da un'altra parte. Il discorso di non portare in giro due cani molto grossi, se sai che per esempio si scagliano verso gli altri cani. In Svizzera hanno avuto bisogno di dirglielo con una regola, però è puro buon senso. La gente ci arriva, ma a volte ci arriva, non lo vuole accettare, oppure riceve tutta una serie di informazioni per cui le cose sembrano più complicate di quelle che sono, e invece basterebbe un po' di buon senso, quindi un po' più di fiducia nelle proprie sensazioni, soprattutto perché io dico sempre a tutti i proprietari, quello che conosce meglio il tuo cane sei tu. Quindi togliti le fette di salame dagli occhi. Bene. Per essere più Allora diamo appuntamento ai nostri cinofili. Chi è invitato a venire da voi? Educatori, veterinari? Tutti, anche i proprietari. Anche i proprietari. Bene. Tutti. Dov'è tutti. Che è? Allora è a Varese, presso l'Eco Studio, quindi se loro guardano sul sito www.azetra.it trovano tutte le informazioni, ci scrivono, basta il nome, è gratuito per tutti i soci Azetra, e gli altri, per gli altri c'è una piccola quota, quindi possono anche associarsi, che costa pochissimo. Quanto e noi siamo costa? Contentissimi. 30 euro costa associarsi come socio sostenitore alla Zetra. Ok, perfetto. Benissimo. Grazie, allora, grazie, grazie, grazie mille. Grazie Barbara Gallicchio. Grazie a voi. Ciao, buona domenica. Ciao, ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, Celentano, che ne pensi di questa giornata qua? Io? Io penso che quello che ti ho detto, che sarò di parte, ma uno deve sapere che cane, perché la gente prende il cane come se fosse un soprammobile, un regalo, questa cosa di regalare il cane, no, gli si sta attento. Ai figli, prendendo la razza che piace a loro, quella che fa più figo, no? Tutti gli uomini repressi che vogliono il cagnone grande per sentirsi virili. Ma secondo te il punto è che non arrivano le informazioni? Perché sai che la Barbara diceva, no, ormai se ne parla ovunque. No, le informazioni uno se vuole le trova, il punto è la superficialità dell'essere umano, cioè, secondo me. Una volta me. Che le sa... Come non le mette in pratica. No, no, perché se io decido che voglio il Doberman perché mi fa figo avere il Doberman, come prendere una Porsche piuttosto che una Panda, io non sto a pensare allora, che vedi, forse cosa allora, mi serve prima o poi più bisognerà utile. Arrivare come servizi sociali, cioè tu vuoi adottare un bambino, io ti devo valutare come persona. A voglia, è allora così, è per il cane, cioè... Ma per me bisognerebbe fare un test anche a chi deve farli i figli. Insomma, lanciamoli idee. Lanciamoli. Pronto? Pronto? Ciao. Pronto. Letizia, siamo al telefono con Letizia Gelsomini, che è un'ascoltatrice, esatto, di Chiedimi se sono felice, giusto? Esatto. Ciao Letizia. Lei ci ha scritto una bellissima mail perché tu hai avuto un'esperienza meravigliosa, anche se un po' più impegnativa, magari poi ce lo dirai tu, perché avevi un cane cieco. Avevo e ho tuttora un cane cieco. Tuttora, fantastico amore. Sì, sì, e hai scritto un libro. Sì. Ho scritto, definirlo libro è una parola grossa, perché alla fine non sono io una scrittrice, quindi è più un libricino, ecco. Un libricino. Però sì. Come si intitola? Si intitola Aiuto mio cane cieco, note per la convivenza. Ecco, vedi. Ecco, perché tu hai detto, visto che io vivo con, come si chiama il tuo cane? Con Lana. Visto che Lana. Io vivo con Lana, che ha questa problematica, Lana. Tante persone magari stanno pensando che, oppure gli diventa il cane cieco, oppure stanno pensando di adottarne uno. Si può fare, vi racconto la mia esperienza. È questo il... Esatto, perché all'inizio Lana adesso ha 6 anni, però il problema è insorto quando lei ne aveva più o meno uno. Ah, quindi non era, è diventata cieca purtroppo. È diventata cieca, è stata una cosa degenerativa e all'inizio... fondamentalmente si è un po' presi dal panico, perché non si sa bene un po' dove sbattere la testa. E allora posteriori, dato che la nostra storia è una bella storia, lei vive bene, siamo regolarmente, gioca con gli altri cani, si relaziona benissimo con gli esseri umani, ho detto perché non condividerla con gli altri per dire che si può fare. È un percorso che si può fare. Ma quindi quali sono gli accorgimenti più importanti che uno dovrebbe avere nel momento in cui o adotta un cane cieco, perché adesso c'è questo cane Ringo che a me piacerebbe aiutare a far adottare, che è diventato cieco, c'ha 3 anni, oppure gli diventa cieco dopo? Quali sono le cose più importanti che un padrone deve sapere? Guarda, prima cosa, pazienza e rispetto. Sembrano scontate, però all'inizio bisogna capire un po' le sue, appunto, necessità, nel senso che in città purtroppo la vista lui non ce l'ha o lei non ce l'ha, l'olfatto è ridotto, per cui bisogna stargli vicino un po', anche il contatto fisico aiuta. Io ho introdotto con Lana dei suggerimenti verbali, quindi anziché il classico seduta o giù, per me c'è la parola gradino o palo, destra e sinistra. Ah, amore. Pian pianino impara, poi ci è voluto un po' di tempo. Ma certo. Però hai trovato utili questi segnali, queste cose che predicono quello che sta per avvenire. Il cane pian piano impara e riesce a seguirti. Ma è in casa, è tranquilla, oramai conosce la casa, quindi uno deve stare attento a non cambiare la disposizione dei mobili, suppongo. Esatto, ma più che altro i mobili, guarda, le sedie e le porte. Perché i mobili effettivamente è difficile che uno si metta a spostare il divano regolarmente. Certo. Però le sedie e le porte vanno sempre o chiuse o aperte, perché a metà strada... creano problemi. Sono dei problemi. Poi diciamo che fa presente l'animale che la porta l'hai lasciata a metà e non è molto gradevole come... No, certo. Per cui queste sono veramente le cose base. Poi ci sono... creare un ambiente confortevole, ma non c'è bisogno di proteggere tutta la casa. Se c'è un mobile nuovo, si sposta qualcosa, io di solito accompagno l'ana all'oggetto e faccio vedere la nuova, cioè le faccio vedere, le faccio capire la nuova disposizione. Quindi lei in casa si muove, quindi lei in casa si muove tranquillamente? Sì, okay. In casa, ma ti dico anche portandola in giro, anche in casa di amici, sta più vicina ovviamente, però ha un certo grado di autonomia nonostante il suo problema. Senti, ma tu hai fatto dei corsi o ti è venuto tutto spontaneo? No, guarda, tutto spontaneo. Ho avuto la fortuna appunto che prima stavo con i miei genitori, avevo una casa con il giardino, per cui era anche più facile gestirla all'aperto in un ambiente di sicurezza, però nel senso che non la devo portare al parco per forza, però nel momento in cui uno riesce a trovare un'area protetta. Beh, diciamo che ti è venuto spontaneo perché ti sei messa dalla prospettiva del cane. Sì, però voglio... vedi la necessità tutti i giorni, quindi certo. O ti adoperi per cercare di aiutarlo oppure... Ed è possibile, per carità, però voglio spezzare anche una lancia a favore di quegli educatori che si occupano anche proprio di deficit... di percezione. Io per esempio ho un amico che si chiama Luca Scanavacca e regolarmente tiene corsi per cani sordi e ciechi, quindi è un bel lavoro e aiuta tante volte le persone che in difficoltà e non sanno come fare, quindi... Esatto. Guarda, io sono, cioè, quello che cerco di far passare come messaggio del libro è che questa è la mia esperienza, però ognuno deve trovare il proprio appoggio e la propria strada. Non è che questa è l'unica strada perseguibile assolutamente, perché uno deve trovare il proprio equilibrio con il proprio amico. Bene. Senti Letizia, grazie mille della tua mail, della tua testimonianza. Letizia Gelsomini, aiuto il mio cane e cieco. E dai un abbraccio a parte nostra all'Ana. Buona domenica. Perfetto, grazie. Ciao Letizia. Buona domenica. Ciao. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E come ogni domenica la nostra nuova rubrica Piatti e Ciotole assieme a Mara Di Noia, veterinario e terapista alimentare, mica bau bau, micio micio. Piatti e Ciotole. Mara. Eccoci, Mara, che ricetta ci hai preparato? Ci prepari, ci dici per oggi? Allora, oggi vi regalo questa ricetta che si chiama tofu strapazzato, molto semplice come tutte le ricette che piacciono a me. Ci occorrono un panetto di tofu al naturale da 250 grammi, due zucchine, due melanzane piccole, mezzo peperone rosso, mezzo peperone giallo, un cucchiaino di olio di oliva extravergine, un pizzico molto piccolo di sale, una bustina di zafferano. Aggiungerei, vista la stagione, basilico e prezzemolo se vi piacciono le erbe aromatiche. Ecco. Fantastico. Allora, in una padella antiaderente andiamo a mettere il cucchiaino di olio extravergine d'oliva e poi lo stendiamo con della carta da cucina in modo tale che ne rimanga veramente poco. Scaldiamo la padella, affettiamo le verdure con una mandolina, quindi saranno molto sottili. Le verdure le cuociamo per pochi minuti in modo tale da mantenerle abbastanza croccanti. Il peperone invece, quello giallo e quello rosso, li aggiungiamo a crudo nel piatto per gli umani. Il tofu va sbriciolato sopra le verdure e lo cuociamo per 5-6 minuti. Alla fine possiamo unire lo zafferano insieme a una mezza tazzina di acqua, mescolare le erbe aromatiche e diciamo, per far amalgamare bene i sapori, tratteniamo sul fuoco ancora qualche minuto. Allora, possiamo aggiungere per la ciotola, quindi per i nostri animali, dei soffiati di cereali, mentre per il piatto va benissimo del riso semi-integrale o del riso integrale come accompagnamento, e questo diventa un vero e proprio piatto unico. Benissimo, ecco, ricordiamo che quando ci riferiamo a ciotola significa quello che possiamo andare da mangiare ai nostri amici a quattro zampe, esatto. E nei piatti invece è la stessa cosa con delle modifiche per noi esseri umani. Poi se qualcuno per scherzo volesse invertirle va bene uguale. È molto, allora, in letteratura non ci sono controindicazioni per i peperoni, ma a mio sentore io non lo aggiungerei per i nostri animali nella ciotola, quindi lo teniamo per il piatto. Vi dico due o tre informazioni utili sul tofu, che è un ingrediente veramente magico in cucina. Ha una origine orientale, allora di per sé lui poverino non sa di niente, ma raccoglie benissimo i sapori degli ingredienti che li mettiamo di fianco, quindi è uno di quegli alimenti che le persone che amano cucinare iniziano veramente ad amare. Va cucinato perché è crudo e indigesto, quindi ricordiamoci sempre di non mangiarlo così come lo tiriamo fuori dalla confezione, perché origina da un legume che è la soia. Il latte di soia viene cotto per pochissimi minuti, viene cagliato, quindi è un vero e proprio formaggio vegetale. Sappiamo bene che i legumi poco cotti sono indigesti per tutte le specie animali, quindi ricordiamoci di cuocerlo. È ricchissimo di nutrienti, quindi è molto leggero ma molto nutriente, ricchissimo di proteine per tutti coloro che pensano di avere delle carenze proteiche avvicinandosi all'alimentazione vegetale, e di grassi insaturi. I grassi insaturi, così vi ricordo che sono quelli buoni, quindi non contiene colesterolo come tutti gli alimenti di origine vegetale. Il colesterolo è presente soltanto nel regno animale, quindi se abbiamo il colesterolo alto possiamo pensare a una dieta prevalentemente vegetale. Bene, fantastico. Un'ultima cosa, facciamo attenzione ai cani che hanno la cute rosa, perché in letteratura è riportata qualche reazione di ipersensibilità cutanea in questi tipi di cani. Che cosa dobbiamo fare quindi? Magari facciamo assaggiare un pezzettino e poi vediamo dopo qualche giorno com'è la cute del nostro cane. Non succede in tutti i cani a cute rosa, però visto che è riportato lo possiamo meglio dire, presente. Teniamone conto. Bene, grazie. Bravissima Mara di Noia. Se volete approfondire il lavoro di Mara, andate su vegachef.it. Grazie a tutti. Ciao Mara, grazie, buona domenica, alla prossima. Buona domenica. Ciao. E anche oggi, come ogni domenica, parte il nostro GR a quattro zampe. Notizie a quattro zampe. Cane salva bimbo con diabete. Dorri Nuttall deve la vita a suo figlio alla prontezza del cane di casa. Il Labrador Jedi in grado di avvertire i livelli di glucosio nel sangue. Pensa. Il bambino Luke ha 7 anni ed è diabetico purtroppo dall'età di 2 anni, e la malattia in età infantile spesso viene diagnosticata purtroppo tardivamente oppure curata nel modo meno adeguato. Che dal momento della sua scoperta il piccolo è stato affiancato a un sistema di monitoraggio costante con macchinari che allertano se il glucosio cambia valori in modo troppo drastico. Però questa volta a fare la differenza c'era proprio Jedi, questo fantastico cane che è stato appositamente addestrato fin da quando era cucciolo ed è in grado di avvertire anche i minimi sbalzi fisiologici. Pensa, i cani addestrati sanno individuare quando un diabetico sta per avere un attacco ipoglicemico, molto prima di quello che invece farebbero le macchine, tant'è che mentre tutta la famiglia dormiva tranquillamente, il piccolo Luke, il bambino, ha subito un picco glicemico negativissimo, ma nessuno dei meccanismi di allarme purtroppo è scattato. Bene. Quindi il cane che gli dormiva a fianco si è accorto immediatamente, annusando il piccolo, è balzato sul letto della mamma muovendola per svegliarla, e era molto bassa la glicemia in questo caso, e possiamo dire che gli ha salvato la vita. Grazie Jedi, un Labrador mi sembra. Sì, un Labrador, anche qui un Labrador. Grande. Ma passiamo alla seconda notizia. 33 leoni tornano in Africa dopo anni di prigionia nei circhi. Questa operazione è una rivoluzione sudamericana contro la sofferenza nei circhi, dice Esseri Animali, che è un'associazione italiana. È una storia a lieto fine. È stato il più grande trasporto aereo di leoni mai avvenuto. Pensa, è costato $400,000. Poi i circensi dicono che gli animali cresciuti in cattività non si possono riportare in Africa. Non si possono riportare. Allora, gli animali ritroveranno il loro ambiente, ma non sarà possibile reintrodurli in natura. Certo. I leoni, dopo una prima fase di quarantena in una struttura specializzata, verranno condotti in un'area protetta, al Sanctuary of Valwater della provincia di Limpopo. dopo. Il santuario è composto da 5.000 ettari di savana chiusi al pubblico, dotato di piscine naturali, di acqua potabile e di radure. Molti dei leoni salvati non sono nelle condizioni necessarie per essere rilasciati in natura, perché si tratta di leoni che hanno sofferto enormemente. La maggior parte di loro sono stati strappati via gli artigli hanno i denti rotti. Ce n'è uno addirittura cieco. Questo sempre per ribadire cosa succede agli animali nei circhi, e che gli animali, tanto tempo abbiamo, cioè l'animale nel circo soffre perché è privato della sua libertà. A me non importa se tu usi la frusta o no, cosa che peraltro voglio proprio vedere come tu fai ad addestrarli, ma a parte questo, anche se tu gli vuoi bene, anche se è nato in cattività, ha dei bisogni istintivi per cui deve essere lasciato libero e non in quelle cazzo di gabbie. Ecco, abbiamo fatto arrabbiare il dottor Vaira, e anche per questa domenica scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. adesso mi tocca calmarlo, ma ce la farò come sempre. Buona domenica a tutti. Ciao.